Musica Maestro di Armando Turno. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con Vittorio Emiliani, che tra l'altro è un vecchio amico di Radio 24 e di questa trasmissione in particolare. Ha appena pubblicato, lo ha fatto proprio nel cuore dell'estate, un libro pieno di ricordi e pieno ovviamente di notizie musicali, come sua abitudine, 100 e più ritratti della Romagna dell'altro ieri, di ieri e di oggi, pubblicato da Minerva di Bologna, 15 euro, 240 pagine. Ma Vittorio Emiliani io lo presento rapidissimamente, ma diciamo gode di chiara fama, è stato uno dei direttori del Messaggero più apprezzati, più amati, quelli che io insomma ho diciamo ammirato di più. Ricordo che è stato presidente della Fondazione Rossini di Pesaro e siccome lui è nato in Romagna si disse finalmente un romagnolo che presiede la Fondazione Rossini. È stato nel consiglio di amministrazione della RAI, ricordo poi che è stato anche deputato progressista, socialista storico, e non poteva che essere un deputato progressista, e poi ha avuto altri incarichi ma non facciamo l'elenco. Ricordo anche che al suo nome è legata una biografia di Rossini pubblicata dal Mulino di Bologna, che è un punto di riferimento. Noi ne abbiamo parlato sia per l'edizione, diciamo così, maggiore, sia anche per l'edizione economica, che poi si fa fatica a trovare perché temo che sia anch'essa esaurita, ma poi sentiremo magari un giorno il Mulino e ci spiegherà queste cose. Comunque, buonasera Vittorio Emiliani. Buonasera a voi. Il ritratto andava bene? Ritratto va benissimo. Ecco, ma allora che cosa ha raccontato della sua Romagna? 100 e più ritratti, ma quante persone ha trovato? Ma dunque sono, il titolo è Romagnoli e Romagnolacci. Certo, questo era il sottotitolo, quello che ho detto, perché Romagnoli e Romagnolacci da un sonetto del Belli, tra l'altro. Sì, il Belli dedica un sonetto che si intitola Le ragazzate degli Romagnoli. C'è stata appena la notte di Rimini, 1831, in cui un folto gruppo di romagnoli, considerati da Belli giacobinacci ovviamente, matti, sgazzerati li chiama, con a capo uno che sarà poi un leader del risorgimento, il medico di Russi, Luigi Carlo Farini, che sarà anche per un breve periodo presidente del consiglio, certo uno è il dittatore poi delle Romagne, dopo i plebisciti, che si sollevano ancora una volta contro il giogo, diciamo ormai sempre più pesante, dello Stato, del Papa Re, e per 3 giorni occupano praticamente la città. Allora Belli scrive un sonetto in cui dice: ma che voglio poi questi romagnoli che si rivoltano sempre, c'hanno questo, sarcasticamente, c'hanno il conforto prima di andare magari sul patibolo, c'hanno i confessori in carcere, c'hanno questo, c'hanno quest'altro, e però alla fine ha un moto di ammirazione, dice stimati sgalzerati, sti romagnolacci de Romagna, che se morono de voglia de morì. Cioè che muoiono per l'ideale, muoiono, certo, per una cosa, per disinteresse in totale. E questo è confermato dall'elenco che c'è quando io vado, celebriamo tutti gli anni, per la verità, ricordiamo la Repubblica Romana, che durò poco ma varò una Costituzione molto importante, quella del 49, e l'elenco dei caduti sul Gianicolo, proprio l'ultima difesa contro i francesi svenuti dall'Emilia, dalla Romagna soprattutto, è impressionante, e sono spesso dei giovani, giovanissimi. Senta, lei cita un sacco di personaggi in questo libro, simpaticamente appunto intitolato Romagnoli e Romagnolacci, e tra l'altro mi ha fatto piacere perché in parecchie pagine lei la cita ampiamente. C'è la grande Ebe Stignani, alla quale Imola ha voluto intitolare il teatro settecentesco di Cosimo Morelli, se non sbaglio. Tra l'altro Cosimo Morelli, non dimentichiamolo, perché ha anche i teatri di Iesi, di Fermo, sì, Palazzo Braschi, Piazza Navona. Era un architetto che lavorava molto sotto Pio VII, soprattutto Pio VI e Pio VII, perché Romagna ebbe 3 papi di fila. Curiosamente, non avevo di più, Clemente XIV, Ganganelli di Sant'Arcangelo, che tra l'altro soppressi i gesuiti, cosa che, cioè, e poi alla quale Canova fece una tomba bellissima, i Santi Apostoli, Pio VI, detto il Papa Bello, che è quello che fonda i Musei Vaticani di fatto, e Pio VII, che è pure un Papa illuminato, Cesenate anche lui, Chiaramonti, che detta le prime leggi sulla tutela dei beni culturali, quindi è un protettore della cultura. E sono gli anni in cui, anche per tenere calmi i romagnoli, che erano molto inquieti e ribollenti, avevano partecipato in massa alle campagne napoleoniche, fra l'altro, per cui c'è una cosa, la voglio dire subito, di Stendhal, che dice: ma c'erano tanti romagnoli ed erano così presenti che si parlava della truppa una specie di dialetto di linguaggio misto di francese e di romagnolo. Tra l'altro, ecco, ricordando i Bestignani, io vorrei far notare che è morta nel 74, cioè il 40° quest'anno, non si sono ricordati molti. È vero, e lei morì nel 74, noi, ecco, vabbè, la ricordiamo noi. Io morì a Bagnacavallo, cioè a Imola, dove si era stabilita, perché si ammalò poi a un certo punto di certo. Imola era di originario di Bagnacavallo, dove sono poi, c'è uno splendido teatro anche lì, a Bagnacavallo, la patria di Le Longanesi. Questa sera siamo in collegamento con Vittorio Emiliani, stiamo parlando del suo ultimo libro che è uscito proprio nel cuore dell'estate, a fine luglio, ed è distribuito in questi giorni, Romagnoli e Romagnolacci, un titolo che è stato preso in prestito tra l'altro da un sonetto del Belli, ma soprattutto è molto lungo il sottotitolo, tanto più che io all'inizio, avendo letto il sottotitolo, mi sono dimenticato di dire il titolo, 100 e più ritratti della Romagna dell'altro ieri, di ieri e di oggi. Minerva di Bologna, 240 pagine, 15 euro. Ecco, Emiliani, abbiamo ascoltato, lei ne parla molto nel libro, perché Imola ha dedicato questo teatro settecentesco, d'accordo, però lei nel libro parla molto di Ebestignani. Io ho fatto ascoltare questo brano, che appunto tutti abbiamo apprezzato, di Ponchielli. Cosa diciamo di Ebestignani? Bah, certamente fu una delle grandi voci del Novecento, insomma, del trentennio a cavallo, insomma, della metà del secolo, lei mi pare che nel 59, quindi smette di cantare, ma quindi ancora giovane, abbastanza giovane, e fu spesso in mezzo soprano e cantava insieme a Maria Callas. Certo. Parecchie registrazioni di Norma, cioè Norma la Maria, diciamo, e Adalgisa e Bestignani e tante altre di queste situazioni, Eboli erano le sue parti, insomma, sia verdiana che belliniana. E certamente bella voce, molto educata, lei suonava anche molto bene il pianoforte, per cui sembrava che avesse un destino da pianista inizialmente, e poi invece dispiegò questa voce così timbrata, calda e educata, insomma, e quindi resta nella storia del melodramma certamente come uno degli interpreti più sensibili e più anche attente, ecco, alla musica. E quindi d'altra parte in Romagna le voci sono state, adesso forse un po' meno, ma sono state parecchie, pensavo per esempio Ezio Pinza, basso, che aveva cominciato come corridore ciclista, poi si scoprì, a me andava anche bene, era forte, poi scoprì questo vocione da basso, bello, soprattutto atletico, e lui poi andò in America, e là, quando morì anni fa, Luciano Pavarotti si disse, ah, uno è il primo che ha contaminato la musica con il musical, no, Ezio Pinza aveva interpretato South Pacific per più di 1000 recite addirittura a New York, era passato a cantare il musical, uno dei musical più noti, certo, più rappresentati, quindi c'è stata sempre questa duttilità anche musicale, insomma, il melodramma poi ha percorso un po' la nostra storia, perché è vero che magari non c'è un grande compositore, però i romagnoli si annettono Rossini, essendo il padre, il nonno di Ugo, ed essendo Gioacchino stato concepito, su questo non c'è dubbio, dai due fidanzati a Ugo, perché nasce 5 mesi dopo il matrimonio, quindi sono un po' presto. E quindi lo Ius Soli, insomma, veniva, Ius Sanguis, dove era stato concepito, era quello che cantava rispetto agli Ius Soli, sulla nascita a Pesaro. E fu Augusto Campana, grande studioso del Rinascimento italiano, che quando io fui nominato presidente della Fondazione Rossini mi incontrò per strada a Rimini in gruppo con altre persone e disse: ah, finalmente un romagnolo al presidente della Fondazione Rossini, ci aspettava, insomma. Ecco quello che ricordavo appunto all'inizio. Sì, appunto. Ecco, ma legato al Recchio, nel suo libro Romagnoli e Romagnolacci, c'è una figura che effettivamente è commovente, Genuzio Ghetti, regato sì, proprio a un momento del Requiem, anche se è un Requiem di Karajan, anche se è fatto alla Scala, noi l'abbiamo un po' traslato, ma cosa è successo con Genuzio Ghetti, questa sua amicizia? Beh, dunque, è successo questo, che nel centenario della nascita di Toscanini, avendo Toscanini diretto a Voghera, dove io allora abitavo, ben una stagione con ben due opere, Aida e Favorita, che sono rimaste della memoria collettiva, insomma, vorremmo celebrarlo con un concerto. Venne il quartetto della Scala e addirittura parlò il grande Gian Andrea Gavazzeni, il quale citò, per la bontà di citare anche un mio articolo in cui a mia volta riprendevo il giudizio estetico di un cronista musicale dell'epoca, che era perfetto, diceva: grande ritmo, potenza orchestrale, grande colore, insomma c'era tutto Toscanini. E allora suonò benissimo in questa della Scala e il primo violoncello io vidi nel programma si chiamava Genuzio Ghetti. Ora Genuzio è un nome che si usa solo in Romagna perché, perché è stato uno dei grandi avvocati, avvocato socialista, avvocato dei poveri, Genuzio Bentini, antifascista oltretutto, eccetera. E quando ci fu poi un ricevimento dopo nel foyer del Teatro Sociale di Voghera, ahimè ora chiuso, sempre speso di restauro, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, io dissi: ma con questo nome Genuzio lì dov'è, di Forlì, di Ravenna? E lui mi disse: sono di Cotignola, che tra l'altro è il paese di origine dei Rossini, e però ho casa a Lugo, e quando vado in vacanza, ovviamente vado in Romagna, nella mia macchina capace metto il violoncello, è il primo violoncello della Scala, che c'è una registrazione di Cara che guarda sempre il maestro, e faccio tappe nelle varie città e suono per gli amici a Imola, Castel Bolognese, a Lugo, a Cortigliolo, eccetera. Era un uomo di una simpatia ancora giovane, sconvolgente. Dice: ma lei non viene alla Scala? Dico: sì, certo, allora venga all'entrata degli artisti, e così. E ci rivedemmo, lui mi fece entrare, e purtroppo due o tre anni dopo morì di un male che allora si chiamava incurabile, e sì, l'ha portato via giovane ancora. Ecco, l'ho voluto ricordare perché in questo libro ci sono personaggi di tutti i tipi, ci sono politici, sindacalisti, ci sono campioni ciclisti, attori, poeti, scrittori, e ovviamente fra i musicisti mi sembrava che Genuzio Ghetti rappresentasse certi caratteri, insomma, della romagnolità che a noi piace, cioè questa passione, la passione civile, la passione per la cultura, per l'istruzione, come dicevano i nostri vecchi. Il senso dell'amicizia profondo, ecco, certo. Magari anche la capacità di confrontarsi persino una volta violentemente, perché era una terra dove si sparava e si usava il coltello volentieri. Oggi è diventata una regione molto cortese, il passatore non fu molto cortese, oggi ecco, sì, c'è una grande cortesia di fondo. Abbiamo parlato di Genuzio Ghetti, che è stato questo violoncellista che ha lavorato alla Scala, tra l'altro per un breve periodo dal 56 al 70, morì a soli 45 anni, ma abbiamo parlato anche continuamente, caro Emiliano, di Rossini, Rossini, Rossini, c'è sempre Rossini, e lei questa sera ci ha detto che è stato concepito in Romagna. Sì, questo è certo. Ecco, è certo, perché nacque 5 mesi dopo il matrimonio del Vivazza, appunto, con la mamma, ecco, quindi era stato un precedente, insomma. E il conte Perticari, che era romagnolo ma era a Pesaro, faceva il magistrato civile, queste cose qui, il purista, no? Giulio Perticari, che aveva questa figlia molto bella, Costanza, che poi era andata, la donna più bizzarra di Serossini che aveva mai conosciuto, che era andata in moglie a Vincenzo Monti. Quindi c'è tutto un giro, insomma, di cose. E allora il perché Rossini quindi c'è questa passione. Addirittura la querelle fra Lugo e Pesaro arrivò a un momento tale che i due podestà negli anni 30 si sfidarono a duello e dovette intervenire, insomma, addirittura Mussolini per dire non fate queste pataccate, insomma, insomma è una cosa che vi rende ridicoli tutti, il partito, eccetera, eccetera. Però è rimasta, insomma, Lugo, devo dire, ha un culto rossiniano molto forte, molto, molto presente, il suo bel teatro che è stato dedicato ovviamente a Rossini. Ecco, il libro racconta anche la storia di questo teatro, che è molto carina. Il teatro è un teatro bibinesco di origine, poi rifatto nel primo 800, molto, molto bello. Durante il fascismo era diventato un cinema impero, credo, e stava decadendo molto, per cui nei primi anni, negli anni 60, si pose il problema se restaurarlo, demolirlo addirittura. Allora non c'era la cultura della conservazione che c'è stata poi, che stiamo perdendo un'altra volta, ma insomma andiamo avanti. E un gruppo di intellettuali bolognesi, qui mio fratello che poi era sovrintendente, lanciò un appello per il restauro. Il sindaco, che era un sindaco dei vecchi sindaci comunisti, molto, molto furbo, molto accorto, dice ma facciamo un referendum, e fece un referendum tra spendere per l'adeguamento delle fogliature, mi pare, e restaurare il teatro. Noi crediamo di sapere che avesse ha vinto l'adeguamento delle fognature, ma ci fu un broglio elettorale, il sindaco aveva preparato già un'urna di voti favorevoli al restauro, dice, oh, i compagni, inaspettatamente ha vinto il restauro del teatro, è una sorpresa, ma dobbiamo, la democrazia è così, dobbiamo adeguarci. E venne restaurato filologicamente affidandolo a Pierluigi Cervellati, che mi disse il primo lavoro che faccio di questo tipo. Ho litigato con i vigili del fuoco, non ho messo un etto di cemento, solo gesso, scagliola e legno ovviamente ignifugato. Quando sentivo un violinista che arpeggiava sul palcoscenico per provare l'acustica, veramente avevo i brividi. Infatti è un teatro acustica perfetto. Perfetta. Prima abbiamo raccontato una storia di teatro andata bene, quella del Rossini. Nel libro parlo anche di una storia che invece è ancora lì, che pencola, è quella del teatro di Rimini, che è stato in parte distrutto dalla guerra, in parte dai riminesi stessi, è rimasto l'avancorpo col foyer, eccetera, che da anni si discute cosa fare. Noi abbiamo proposto tante volte, Cervellati che ho citato, che ha fatto anche un progetto gratuito, è un teatro del Poletti, quindi grande architetto, quello della Fortuna di Fano, per esempio, che venne ricostruito sulla base dei disegni del Poletti, come dov'era. No, per guadagnare 100-150 posti in più che non cambiano nulla in una città che adesso ha una grande fiera, quindi ha degli auditori, eccetera, eccetera, siamo lì ancora a zero, anzi si minaccia anche un'area archeologica che c'è vicino al teatro, che è vicinissimo al bellissimo Castel Sismondo, che è accertato che sia opera di Brunelleschi, niente meno. Bene, ci sono alcuni riminesi che sono battuti, questo Attilio Giovagnoli, per esempio, un uomo ancora giovane, insegnante di storia dell'arte, con un comitato che era presieduto, purtroppo sono passati anni, da Renato Tebaldi, la prima firma di Claudio Abbado, c'è quella di ovviamente di Riccardo Muti, che chiedono di riavere il teatro del Poletti come era, dove era, come si è fatto a Fano, come si è fatto a Lugo, insomma. Io racconto anche questa storia, perché lì tra l'altro Verdi diede la prima assoluta della Roldo, cioè del rifacimento di Stifredio, diretto da un grande direttore ravennate che è Angelo Mariani. Certo, certo, cioè, ogni angolo d'Italia ha una storia che dovremmo rispettare e dovremmo riuscire così a riprendere. L'Italia è fatta anche di questo, una ricchezza capillare che... Sui teatri storici non si parla sempre di musei, sempre di chiese, sempre di aree archeologiche, ci si dimentica che l'Italia ha... Si stima 800 ancora teatri storici, di cui 90 in Emilia Romagna, 70 nelle Marche. Bene, non esiste un censimento complessivo, non esiste una schedatura. Io ho fatto un libro, secondo l'indicazione dello sponsor, ovviamente, su alcune regioni che ha avuto, per carità, grandi apprezzamenti, ma il sogno di fare almeno due volumi, uno sul nord e uno sul centro-sud, rimane per ora un sogno. E quante altre storie, Emiliani, le ha raccontato? Tante, anche di politici, che ha tradizione musicale. Diciamo allora che almeno due erano sicuramente melomani. uno verdiano, Oddo Biasini, segretario nazionale del Partito Repubblicano, simpatica persona e ottimo ministro dei beni culturali, che riuscì a stanziare 120 miliardi dello stanza per solo l'archeologia romana, si dice tanto il Colosseo, per, vabbè, lasciamo perdere, si dimenticano queste grandi opere che consentì il restauro di tutta la parte archeologica dei fori Roma. Bene, Audesi è talmente verdiano, sfegatato, che chiamò la figlia Gilda, da Rigoletto. Rigoletto, sì. Lama invece era un, cantava bene, un buon bas bariton, era un pucciniano, io lo prendevo facilmente in giro per questo, non che io lavi i puccini, ma insomma la generazione dei nostri padri ci ha fatto mangiare tanto puccini, ecco, i Mascagni, e lui un po' se la prendeva, perché proprio aveva una grande passione pucciniana, e sicuramente credo che cantasse anche bene, perché il vocione l'aveva, ecco, insomma Collin l'avrebbe cantato bene probabilmente, vecchia zibarra, ecco. Questo l'Arturo ci prendeva, insomma, ecco. Ecco, provava anche lì, e competenza e studio, elaborazione, faceva rifare gli atti interi, insomma, anche queste cose. Lui tra l'altro mantenne, ecco, voglio dire, una figura che io in libro faccio un ritratto, Armando Borghi, l'ultimo anarchico storico, se vogliamo, vissuto a Esodo negli Stati Uniti per tanti anni, e lui praticamente lo mantenne, lo sfamò. E accettò anche il suo proposto di dirigere la Carnegie Hall con l'orchestra NBC, l'internazionale. C'è una registrazione dei video, chi vuole vedere su YouTube, in cui Toscanini dirige l'internazionale. Quindi è da segnalare, insomma. Antifascista proprio. E poi 142. Ecco, poi non dimentichiamoci che appunto mantenne questo anarchico Armando Borghi. Eh sì, praticamente sì, che era un suo grande amico e un uomo di straordinario coraggio e intelligenza. Ecco, poi non dimentichiamoci che Rossini in Romagna prese il celebre schiaffo, no? A Bologna. Toscanini, certo. No, a Bologna. Toscanini, sì, appunto, Toscanini, a Bologna venne. Purtroppo tra gli schiaffeggiatori c'era Leo Longanesi, che anche. E questo fece sì che Toscanini non dirigesse mai più l'Italia, fino alla caduta del fascismo. Poi quando ci fu l'Anschluss non diresse più a Salisburgo, quando Hitler era andato al potere non aveva abbandonato Bayreuth. Il Festival di Lucerna fu creato per sentire di nuovo Toscanini in Europa, e mi raccontava Camillo Cederna che loro al primo concerto di Nuovi Toscanini andarono da Milano, chi in macchina, chi in treno, e vennero tutti schedati perché ovviamente la polizia controllava, sì, perché era una manifestazione antifascista, diventava insomma questo primo concerto di Toscanini a Lucerna, dove venne costituita per lui un'orchestra, come è stato fatto qui per Abbado, che in questo è il suo degnissimo successore stato. Certo, e comunque una figura come quella di Toscanini, al di là di quelli che sono stati i momenti musicali, che sono grandissimi, mitici, eccetera, ma ci fu una passione civile in questi direttori che effettivamente... Lui era figlio di un garibaldino che aveva combattuto a Bezzecca e fu interventista, era repubblicano, insomma. Per 2 anni lui diresse bande militari al fronte senza prendere un soldo, e dovette vendere una casa a Milano per mantenere la famiglia, che era già numerosa, per dirgli il disinteresse assoluto. E anche gli Stati Uniti, dove appunto aveva certamente grandi guadagni dirigendo la NBC, un'orchestra creata per lui da una grande emittente televisiva, e anche qui non solo Borghi, ma anche altri fuoriusciti italiani furono aiutati da lui con una generosità straordinaria, ecco, erano uomini di una tempra che rimpiangiamo proprio per il loro coraggio. Si espose anche con un appello contro i Savoia, per lui era repubblicano, insieme a Pacciardi, a Leonardo Venturi, a Salvemini, contro la monarchia dopo l'ignobile fuga a Pescara del re, dell'intera famiglia reale dopo il 25 e di tutto il governo dopo l'8 settembre e di tutto il governo, insomma, anche tutto il governo, in parte alcuni rimasero a Roma dopo scapparono, ma insomma il governo era anche comprensibile perché erano compromessi politicamente, ma non restò nessuno della casa reale, insomma la città, il generale Carboni non ebbe neanche le istruzioni, gli disse il re si arrangi, quindi anche tutta la battaglia di Porto San Paolo dove l'esercito si batté i lancieri di Montebello, di Monferrato, i carabinieri, i romani accorsi, furono tanti anche i morti, fu un episodio eroico quello di Porto San Paolo, ma la difesa di Roma non fu organizzata per nulla, insomma, perché questa fuga fu così precipitosa. E devo dire che Toscanini insieme a Salvemini, a Borghi, ad altri, Sforza, eccetera, da New York, lanciò un appello contro la monarchia per la Repubblica. E avevano visto giusto. E certo che avevano visto giusto, come amiamo ripetere ogni tanto. Del resto è difficile contraddire Toscanini anche in questi dettagli di storia patria. Certo. E in questo libro mio, insomma, quest'area repubblicana circola molto. Anche perché la Romagna è una terra repubblicana per eccellenza. Certo, profondamente repubblicana, al di là del Partito Repubblicano, insomma, anche come movimento risorgimentale prima. E con lo stesso Angelo Mariani che ho citato, il primo poi dei direttori, perché il ruolo di direttore, come sa, nasce tardi in Italia, verso il 1840, e Angelo Mariani fu uno dei primi, era venato, lui poco più che ventenne aveva partecipato alle 5 giornate di Milano, era a Milano per dirigere, ma si mise sulle barricate. Bene, Emiliani, senta, lasciamo Mariani sulle barricate, io però la saluto. Ci dobbiamo salutare. Romagnoli e Romagnolacci, pubblicato da Minerva di Bologna, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e a tutti. Beh, grazie a voi cari ascoltatori, come sempre un cordiale saluto da Armando Torno e da Vittorio Emiliano.